Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi attacca stampa e TV, ma porta a porta fa bassi ascolti, battuta dalla Fiction su Canale 5. Franceschini, il premier, è privo di argomenti. Disoccupazione al 10% nei paesi OCSE, mai così male dal dopoguerra, e in Italia il peggio deve arrivare. Pordenone, prime ammissioni del padre di Sanà, uccisa ieri perché viveva con un ragazzo italiano. Calcio, Champions League, stasera super sfida Inter-Barcellona, in campo anche la Fiorentina. E buona giornata da Alessio Maurizi e dalla redazione. In apertura dunque i dati economici della giornata, con l'inflazione in Italia risalita dello 0,1%, meno delle stime di agosto, e soprattutto con i timori per la disoccupazione nell'area OCSE. I senza lavoro sono saliti al 10%, pensate, i livelli più alti dal dopoguerra, e per l'Italia il peggio sarebbe ancora in arrivo. Ne parleremo più avanti, adesso invece iniziamo con la pagina politica, perché il giorno dopo la trasmissione della Discord di Porta a Porta, in primo piano restano le dichiarazioni del Presidente del Consiglio su stampa e TV. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il Premier ha teso la mano ai suoi alleati Fini e Bossi, ma è andato giù duro verso stampa ed opposizione. Il problema, ha fatto capire il Cavaliere, non sono i fraintendimenti all'interno della maggioranza, semmai TV, giornali e politica, dove ci sono troppi farabutti. Centrosinistra e mezzi di informazione con le loro delinquenziali accuse sul conflitto di interessi, e poi i centristi dell'UDC che praticano, ha detto il Presidente del Consiglio, la politica dei due forni e tengono alle clientele. Berlusconi se l'è presa anche con il Partito Democratico, che resta abitato, ha spiegato, da vecchi gufi, vecchi comunisti che usano metodi stalinisti. La manifestazione per la libertà di stampa, che la sinistra promuove, è veramente il contrario della realtà, ha detto ancora il Premier, che ha puntato poi il dito sulla RAI, unica tra le TV pubbliche occidentali, ha detto Berlusconi, ad attaccare il governo in carica. Molti commenti alla serata televisiva del Premier. Per Franceschini, PD, il Cavaliere è ormai un uomo nervoso e impaurito, no alla delegittimazione della RAI, risponde da Viale Mazzini il presidente Garimberti. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Intanto i dati d'ascolto dicono che la Fiction, l'onore e il rispetto su Canale 5, ha battuto Porta a Porta, dedicato ieri proprio alla consegna delle case ai terremotati, con Berlusconi primo ospite unico nella prima parte del programma. Questi i dati: il 22% di share la Fiction su Canale 5 con 5.700.000 spettatori, il 13% invece ha fatto Porta a Porta con solo 3.200.000 ascoltatori. E allora torniamo all'Aquila. Ieri il sottosegretario Bertolaso ha detto che sui numeri degli sfollati c'è stata disinformazione. Facciamo il punto. Dopo la consegna delle case di Onna, che sia stata una passerella o meno, bisogna ripartire da qui. Fatevi un giro per i paesi! Fatevi un giro per i paesi! Siamo contentissimi per loro, veramente contentissimi, ma noi non siamo cittadini di serie B. Bisogna ripartire dalle proteste, ma soprattutto dai numeri. 30.000 sfollati, ovvero 30.000 persone che hanno perso la casa. 20.000 vivono ancora negli alberghi della regione, 12.000 nelle tendopoli. I numeri del sottosegretario Guido Bertolaso. Circa 20.000 vengono dal centro storico dell'Aquila e dai quartieri intorno all'Aquila. E queste persone verranno sistemate nelle case antisismiche. Gli altri 10.000, più gli abitanti che hanno perso la casa degli altri 55 comuni del cratere, verranno ospitati in questo tipo di villette. Il 29 settembre, stando alle parole di Bertolaso, verranno consegnati i primi 700 appartamenti nelle case antisismiche per 2.500 abitanti. La protezione civile abbandonerà le zone del sisma entro la fine dell'anno, e fra la gente si respira ancora rabbia, paura e incertezza. Stefano Totoro, GR24, il sole 24 ore, L'Aquila. Il 6 ottobre prossimo c'è un appuntamento giudiziario che, così riferiscono i retroscena di Palazzo, potrebbe mettere in seria crisi il governo. Si tratta dell'udienza davanti alla Consulta, la Corte Costituzionale, con cui si discuterà della legittimità costituzionale del lodo Alfano. Ieri sono state presentate le memorie delle parti. Facciamo il punto in questo servizio. Mancano solo 3 settimane a quello che nei corridoi dei palazzi viene definito l'appuntamento giudiziario più importante dell'anno. L'udienza pubblica il 6 ottobre prossimo davanti ai giudici della Consulta, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del lodo Alfano. La legge che assicura lo scudo processuale alle quattro più alte cariche dello Stato, tra cui il Premier. Se la legge verrà bocciata, come già successe nel 2004 con il lodo Schifani, i processi pendenti a carico di Berlusconi congelati nel frattempo, Mills e Diritti TV a Milano, presunta compravendita di senatori a Roma, verranno ripresi. Ieri sono state depositate le memorie dei legali di Berlusconi e della Procura di Milano che ha sollevato la questione. In una cinquantina di pagine Alessandro Pace, l'avvocato che rappresenta i magistrati milanesi, sostiene che la legge approvata nel giugno 2008 costituisce in pratica un privilegio illegittimo. Incostituzionale perché viola una serie di principi quali l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la ragionevole durata dei processi. Garantisce solo il diritto di difesa, replicano nella loro memoria i legali del Premier Niccolò Ghedini e Pietro Longo. I processi vengono sospesi per assicurare il sereno svolgimento delle funzioni. A questo proposito, la Procura di Milano evoca un precedente, la sentenza della Corte Suprema americana sulla causa intentata nel 1997 da Paula Jones contro Bill Clinton, accusato di molestie sessuali. All'allora presidente americano, che chiedeva una sospensione del processo per i suoi impegni alla Casa Bianca, la Corte rispose che quei reati non attenevano alla sua funzione pubblica, ma alla sua sfera privata, quindi il processo non poteva essere sospeso. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E come sapete, in questi giorni il mondo politico è stato scosso anche dagli articoli del giornale di Feltri e dalle risposte del presidente della Camera Fini, che ha querelato Feltri. A questo era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Da che parte state? Queste le vostre risposte. Gli ascoltatori di Radio 24 hanno deciso. Nella querela anche giudiziaria tra il direttore del giornale Feltri e il presidente della Camera Fini stanno dalla parte di quest'ultimo. Il 70% ha deciso così. I fatti sono noti. Feltri sul giornale ha minacciato un paio di giorni fa di pubblicare un fascicolo a luci rosse risalente al 2000 e che riguarderebbe anche uomini dell'ex Alleanza Nazionale. Fini ha risposto con una querela per diffamazione e ieri alla Camera, presiedendo la seduta, è stato laconico. Non è certamente questa la sede in cui il Presidente della Camera intende affrontare la questione che è stata sollevata. Accadrà certamente in altra sede di natura politica e giudiziaria. Bianco Nero torna domani alle 8:30. Per votare potete andare sul sito radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Ora parliamo dell'omicidio di Sanà, la ragazza marocchina di soli 18 anni. Il procuratore della Repubblica di Pordenone ha confermato che tra i motivi all'origine dell'omicidio c'è anche quello della diversità di religione con il fidanzato. Sembra dunque trovare conferma il primo sospetto. La giovane 18enne sarebbe stata davvero accoltellata dal padre, che si opponeva alla sua relazione con un italiano cattolico e anche più anziano di lei. Abbiamo sentito il sindaco di Pordenone, Sergio Bolsonello. Fino adesso non si era mai verificato alcun tipo di problema legato a motivi religiosi, che la cosa è ancora più strana proprio perché tutti erano inseriti in varie attività lavorative di questa provincia. La comunità marocchina delle donne in Italia si costituirà parte civile nel processo contro il padre assassino. Abbiamo chiesto alla presidentessa Suad Sbai se e come sia possibile l'integrazione in Italia. È quasi impossibile, perché nel precedente, non pensiamo al precedente solo di Hina Salem, di precedente ce ne sono stati altri 18, solo che non hanno fatto notizia. Certo è impossibile per chi purtroppo non hanno usufruito di quel processo di integrazione naturale che è successo nel loro paese di provenienza, e qui è stato quasi direi un fallimento, perché purtroppo chi ha preso sopravvento su queste persone sono state quei moschee fai da te, quei personaggi imam fai da te, che hanno dato un pensiero di integrazione molto deformato. Se ne parla tanto di cittadinanza, se ne parla tanto di diritto al voto, si parla tanto di diritti, ma qui di doveri se ne parla molto poco. Quella lavorativa non è integrazione, la vita è integrazione sociale che è importante. Secondo me dobbiamo salvaguardare la seconda generazione, perché di questi crimini ne avremo tante. Come associazione ACMID intendiamo oggi presentarci parte civile per questo questo processo per questa ragazza. E ora parliamo della nave, o meglio, come dovremmo dire, delle navi dei veleni. Ci sono nuove rivelazioni sui giornali di oggi. Il ritrovamento al largo delle coste tirreniche calabresi della nave Kunski sta riaprendo con forza l'intera vicenda delle navi dei veleni e dei traffici internazionali dei rifiuti. Francesco Fonti, il pentito che indicò la posizione della nave filmata al largo di Cetraro, racconta in un'intervista pubblicata oggi sul Manifesto come l'Andrangheta gestisse parte delle rotte dei rifiuti pericolosi verso la Somalia. Almeno uno di quei viaggi l'ho organizzato io dall'Italia, dice Fonti, e utilizzammo una nave dello Scifco, un traffico che partiva da Livorno e da altri porti italiani ed era diretto a Bosaso, secondo quanto riferito da Fonti. Ilaria Alpi, aggiunge sempre Fonti, è stata uccisa perché ha visto quello che non doveva vedere nel porto di Bosaso. Ho portato di persone rifiuti radioattivi, questa sembra la versione del pentito, nel Corno d'Africa, e quando arrivavamo al porto di Bosaso i militari italiani si voltavano dall'altra parte. Ma sempre oggi sul Sole 24 Ore in un'intervista ha parlato anche un magistrato, Franco Neri, ex sostituto procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Nel 95, ha detto Neri al Sole, chiesi 50.000 euro per le ricerche della nave, ma il ministero disse di no e non diede spiegazioni. Ora invece, dopo il ritrovamento del relitto al largo di Cetraro 4 giorni fa, è stato deciso di mandare sul posto una nave oceanografica dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Entro un paio di giorni l'inizio dei lavori. Filippo Veltri, GR24, il Sole 24 Ore, Cosenza. E i racconti del pentito che ha fatto queste rivelazioni si intrecciano con la storia della giornalista italiana Ilaria Alpi, uccisa in Somalia nel 1994. Allora può essere davvero andata così. Allora l'inviata del TG3 Ilaria Alpi e l'operatore freelance Mira Rovatin nel 1994 non erano andati in vacanza in Somalia a spese della RAI, come scrisse nella sua relazione finale il presidente della commissione parlamentare Carlo Taormina. Dunque, secondo il collaboratore di giustizia Fonti, quella nave che Ilaria e Miran videro ancorata davanti al porto di Bosaso, cioè la Farax Omar di proprietà della società Scifco, poteva avere davvero trasportato barili di sostanze tossiconocive, poi interrati lungo le coste oceaniche della Somalia, mentre i soldati italiani della missione di peacekeeping si voltavano dall'altra parte. Ilaria e Miran possono essere stati uccisi quel 20 marzo del 94 soltanto per questo motivo, perché, come disse Ilaria Alpi al maresciallo Vincenzo Li Causi, più che dei somali, temo gli italiani. 13:16, nella prima parte del GR24 ci siamo occupati degli attacchi alla stampa e alla TV del Presidente del Consiglio Berlusconi. Ieri a Porta la replica del leader del Partito Democratico Franceschini, il Premier, è privo di argomenti, ma la puntata di Bruno Vespa ha fatto meno ascolti della fiction su Canale 5. E poi per la cronaca a Pordenone ci sono le prime ammissioni dopo ore e ore di interrogatorio da parte del padre della ragazza uccisa ieri, Sanà, perché viveva con un ragazzo italiano. Adesso i dati economici di giornata. E la situazione economica sta migliorando, ma non è ancora venuto il momento di abbassare la guardia. Così questa mattina il commissario europeo agli affari economici e monetari Joaquín Almunia, secondo il quale restano i rischi di una ricaduta dovuti sia alla crescita della disoccupazione sia alla fragilità esistente ancora nel sistema finanziario. Per quanto riguarda la disoccupazione, poco dopo, puntuali, sono arrivate le conferme dell'OCSE con la disoccupazione nei paesi dell'area salita al 10%, con, pensate, 57 milioni di disoccupati. Complessivamente parlando, un livello che non si toccava dal dopoguerra. 15 milioni i senza lavoro causati dalla crisi, secondo l'OCSE, che stima per l'Italia un tasso del 10,5% di disoccupati all'inizio del 2010. E oggi anche il dato che riguarda proprio l'Italia sull'inflazione. Facciamo il punto con Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. È una notizia, quella che vi diamo adesso, che forse può rappresentare una cattiva notizia per i consumatori, ma è buona per la ripresa economica, perché i prezzi ricominciano a salire. Torna infatti a crescere dopo 13 mesi consecutivi di ribassi l'inflazione, che ad agosto è salita dello 0,1% contro il tasso zero registrato a luglio. Lo ha comunicato l'Istat oggi, rivedendo le stime diffuse due settimane fa. La ripresa congiunturale dei prezzi è dovuta in gran parte alla crescita dei prezzi dei beni energetici e dei trasporti, settori peraltro che registrano invece un tasso tendenziale, cioè annuale, negativo. In particolare nel comparto energetico si è registrato un aumento congiunturale, quindi mensile, della benzina verde dell'1,8%, mentre per il gasolio si registra un più 2,8%. Capitolo alimentari, molto importante per i consumatori, c'è un rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi di pane e cereali, passata dall'1,5% di luglio all'1% di agosto. Il prezzo del pane risulta in lieve aumento rispetto a luglio. L'Istat sottolinea a questo punto che l'inflazione acquisita nel 2009 sarebbe dello 0,8%. Un'ultima curiosità da un punto di vista geografico: gli aumenti più consistenti si sono verificati a Napoli, Trieste e Reggio Calabria, le variazioni più moderate hanno riguardato invece le città di Milano e Trento. È tutto. E ieri i numeri positivi del settore dell'auto in Europa grazie agli incentivi. Oggi è tornato sull'argomento l'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne, che ha detto di auspicare gli incentivi dell'auto anche per il 2010 per il bene del paese, altrimenti sarebbe disastroso. Queste le parole usate da Marchionne dal Salone dell'Auto di Francoforte. E c'è un'altra notizia che riguarda in questo caso la Formula 1, un'agenzia di pochi secondi fa, Massimo Di Scienza, riguarda Flavio Briatore. Riguarda Flavio Briatore, che non è più, da pochi secondi, team manager responsabile della squadra corse della Renault. Lascia Flavio Briatore la Renault, infatti lascia anche il capo del settore tecnico Simons. Tutto questo a seguito del ormai noto scandalo relativo al Gran Premio di Singapore dello scorso anno. Si era appreso, secondo la testimonianza del pilota coinvolto, ovvero Nelson Piquet Jr., che sarebbe stato simulato un incidente creato a tavolino, un incidente in quell'occasione per favorire l'altro pilota della Renault, Alonso. È parlato appunto di un'inchiesta aperta dalla Federazione Internazionale. Probabilmente questa mossa della Renault consentirà alla casa costruttrice francese di evitare squalifiche e ripercussioni più pesanti sul futuro tecnico del team. Comunque ribadiamo la notizia: Flavio Briatore e Simons non fanno più parte della casa, della scuderia Renault, e quindi lasciano gli incarichi. Alessio. Grazie Massimo Di Scienza, una svolta quando naturalmente il mondiale di Formula 1 deve ancora andare avanti. E adesso invece andiamo in Giappone, perché arriva una svolta. Il Parlamento infatti ha eletto il nuovo primo ministro e non è un conservatore. Da oggi il Giappone ha un nuovo primo ministro, Yukio Hatoyama, presidente del Partito Democratico, eletto oggi dalla Dieta dopo la schiacciante vittoria elettorale del 30 agosto scorso. Hatoyama ha 62 anni e alle spalle ha studi di ingegneria alla Università di Tokyo e alla Stanford University in California. Ha vinto le elezioni con la promessa e lo slogan del cambiamento, come aveva fatto Obama. Ma c'è una differenza con il presidente americano. Hatoyama fa parte di una delle più importanti e facoltose dinastie politiche del Giappone. Suo nonno è stato primo ministro, suo padre ministro degli esteri, suo fratello è stato ministro nell'ultimo governo, sua madre è la figlia del fondatore del colosso dei pneumatici Bridgestone. Contrariamente alle consuetudini dinastiche, comunque, Yukio ha sposato Miyuki, una donna eccentrica, ex attrice di 4 anni più anziana di lui e reduce da un precedente matrimonio. Cambiamento, ma anche elementi di continuità, dunque, nella svolta politica in corso che ha portato alla fine del monopolio di oltre mezzo secolo di potere da parte del Partito Liberal Democratico, lo schieramento conservatore che lascia ora il posto a un esecutivo centrista con venature di sinistra. Al primo posto in agenda c'è l'economia, che sta cercando faticosamente di uscire dalla crisi. Hatoyama vuole mettere al primo posto le famiglie e i consumatori e ha irritato le imprese preannunciando aumenti di salario minimo, obiettivi più ambiziosi di riduzione dell'inquinamento e limitazioni al lavoro temporaneo. A rassicurare gli investitori, comunque, ci sarà la nomina a ministro delle finanze di un veterano, il 77enne Hirohisa Fujii. La lista dei ministri sarà comunque ufficializzata domani, giorno in cui a Tokyo il nostro presidente Giorgio Napolitano incontrerà l'imperatore. Stefano Carrer, GR24, Sole 24 Ore, Tokyo. Sentite la sigla del Carosello. Perché? Perché è morto a Roma il regista e sceneggiatore Luciano Emmer, aveva 91 anni, autore tra l'altro di Parigi e Sempre Parigi, Le ragazze di Piazza di Spagna, Terza Liceo, ma è stato soprattutto il più prolifico regista pubblicitario. Sua infatti la sigla del primo Carosello, quella che sentite, nel 1957, che nacque così, come lui stesso aveva raccontato circa 2 anni fa in una intervista alla nostra Marta Cagnola. Il giorno prima di andare in onda con Carosello, per i sciagurati della Rai, ci sono accorti che non avevano la sigla. Quindi durante la notte, con l'aiuto di un macchinista molto bravo, amico mio, ebbe l'idea di fare un teatrino con le tende, con un carrello, allora non esisteva un zoom, che penetrava e si aprivano ogni volta un sipario, erano cinque. Durante la notte riuscì a costruire questo, facendo dipingere anche le scene che erano dipinte sulle tende che si aprivano. E la mattina alle 6 o alle 7 era pronto, lo feci girare, portare a mezzogiorno in negativo, lo svilupparono. Avevo trovato una musica da un documentario che stava nell'archivio della Incom e alle 6 in punto arrivò la sigla alla RAI. Adesso siamo allo sport, i riflettori dell'Europa calcistica sono puntati su San Siro, naturalmente, dove questa sera l'Inter affronta il Barcellona. Il protagonista della serata non può che essere Zlatan Ibrahimovic. Ho visto i risultati, stanno facendo molto bene. Zlatan, che accoglienza ti aspetti però da parte dei tifosi? No, niente, aspetto un grande partita. Poche parole, faccia da duro, quasi a ribadire che a lui piace parlare coi fatti. Ma sicuro stasera a San Siro anche Zlatan Ibrahimovic sentirà un brivido lungo la schiena. Difficile dimenticare 3 anni, scudetti e gol in nerazzurro. Difficile non alzare gli occhi verso quella curva che promette indifferenza, che ha incantato a suon di prodezze e poi tradito quando iniziò quel famoso mal di pancia, quella voglia di andar via che lo ha portato a Barcellona. Sarà la notte di Zlatan, nel bene o nel male, e se è vero che Inter e Barça si scambiano campioni e tecnici dai tempi di Herrera e Suarez, allora sarà anche la notte, nel bene o nel male, di Samuel Eto'o, che in Blaugrana di Champions ne ha vinte già 2 e che ora la Coppa vuol riportarla nella Milano nerazzurra, dove manca da 44 anni. Per un altro ex, José Mourinho, la freccia nera è pronta a consumare la sua vendetta. Samuel è uno di questi giocatori che è nato per vincere, non è in debito con il Barcellona perché ha dato tanto al Barcellona. Dario Ricci, GR 24, Il Sole 24 Ore. E per la Fiorentina l'esordio nel gruppo E in Francia contro il Lione. Ascoltiamo il tecnico Viola Prandelli del centrocampista Montolivo. Noi vogliamo affrontare quest'anno la Champions con il sorriso, con la gioia, con l'entusiasmo, senza pensare a cosa potremmo fare. Io sono convinto che l'esperienza dell'anno scorso ci può essere utile. Sicuramente una bella prestazione, una bella vittoria in trasferta in Champions League. Penso che sarebbe un'iniezione di fiducia sia per me ma anche per tutta la squadra. Quindi l'obiettivo comunque è quello di cercare la prestazione. Dal calcio al basket, perché hanno fatto rumore le dichiarazioni di Andrea Bargnani, una delle stelle della nazionale rimasta recentemente fuori dagli europei. Bargnani ha attaccato la gestione del gruppo da parte del CT Recalcati. Quando non si ha una linea da seguire, ha detto, è facile che una squadra non sia unita. Massimo Di Scienza ha intervistato il presidente della federazione, Dino Meneghin. Mi ha un po' sorpreso per il modo in cui sono state fatte. Forse spero che abbia voluto dire alcune cose, ha detto alcune cose significando altre, nel senso che non fosse proprio un attacco diretto al coach, ma che parlasse di un problema un po' in generale. Mi aspetto da lui, al di là di parole, chiacchiere, che faccia un'accusa verso se stesso, come ha fatto, ha detto che deve maturare verso in molti sensi, e quindi spero ardentemente che questo non precluda il suo ritorno in nazionale in un prossimo futuro. Queste dichiarazioni potrebbero cambiare qualcosa in vista del Consiglio federale di fine mese per quanto riguarda il futuro della panchina di Recalcati? No, Recalcati ha il contratto per il 2011, e ora questo tormentone finisca. Abbiamo avuto diversi problemi, ma in questo momento comunque Recalcati non si discute. Ed è tutto per questa edizione. In studio Alessio Maurizi, regia Fabio Cantadori. Adesso arriva Buongiorno America con Stefano Pistolini. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.